Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani. Si punta tanto nel nostro paese sull'educazione finanziaria, con grandi passi avanti ma ancora non con completo successo. E visto che nelle scuole si fa troppo poco per educare i piccoli alla cultura del risparmio e del corretto utilizzo del denaro, allora meglio cominciare molto presto, quando i piccoli sono proprio molto piccoli. Il primo passo utile che si può compiere è di sicuro essere come familiari capaci di individuare sul mercato del credito e del risparmio le soluzioni giuste per accantonare risorse per il loro futuro. Non è sempre facile, anche perché adesso ci sono davvero tante opportunità, dai tradizionali libretti di risparmio ai conti correnti veri e propri, naturalmente sempre gestiti rigorosamente dai genitori, ai prodotti del ramo assicurativo. E allora, siccome queste novità sono tante, come vi dicevo, oggi abbiamo deciso di parlare del risparmio dei più piccoli, mettendovi a disposizione rappresentanti del mondo bancario e assicurativo per rispondere alle vostre domande su quello che magari è meglio fare per la vostra situazione familiare. Magari vi siete fatti tante volte questa domanda, ma ancora non siete stati in grado di orientarvi verso il prodotto giusto. E poi ci faremo naturalmente raccontare anche che cosa bolle in pentola e che cosa stanno facendo queste aziende proprio per puntare sul futuro dei più giovani. Avremo con noi stamattina Gino Conte, responsabile marketing di Generali Assicurazioni, Gianluigi Polini, direttore commerciale della Cassa di Risparmio di Ferrara, e Cristiano Bottone, responsabile marketing del consorzio Banche Popolari. 800 24 00 24, chiamateci per farci appunto le vostre domande, soddisfare le vostre curiosità proprio a proposito del risparmio per i più piccoli. Scriveteci se volete al 349 238 6666. Il quadro di borsa stamattina è piuttosto positivo, ma d'altronde siamo nel mezzo di una settimana che già ha tutta l'aria di essere piuttosto altalenante. Lunedì partita bene, ieri di nuovo tutte giù le piazze europee con cali vicini al 0,5%, adesso invece stamattina si recupera. Parigi ha un rialzo dell'1,61%, Francoforte dell'1,45%, Londra più 0,78% e Milano in rialzo dell'1,13%. Sul FTSE MIB bene l'ottomatica, sta salendo di 4 punti percentuali. Il gruppo ha ricevuto un giudizio positivo di una SIM Equita. Abbiamo Exor, l'azionista di riferimento di Fiat, in rialzo del 3,68%, bene anche la stessa Fiat. Il lingotto è in guadagno di 3 punti. Ricordiamoci che ieri il settore auto è sceso in maniera piuttosto pesante, ma abbiamo oggi tutti gli occhi puntati a Detroit, dove Sergio Marchionne presenta il piano industriale per Chrysler. Tutto questo in una mattinata in cui si è appreso che General Motors rinuncia alla vendita di Opel, con il fortissimo disappunto del governo tedesco. Già sono in procinto di partire numerosi scioperi in Germania. Vedremo insomma come questa storia andrà a finire. Una nuova puntata intanto proprio di una vera e propria telenovela, quella della vendita di Opel. Prysmian va bene, più 3,31%, anche Saipem più 3,30%, Tenaris più 3%, e stanno rimbalzando quasi tutti i titoli del settore bancario, anche questi in forte sofferenza negli ultimi giorni. Non tutti, per la verità, perché per esempio UbiBanca perde lo 0,15%, il peggior titolo è però Parmalat, perde appena lo 0,32%, per cui complessivamente una giornata di rimbalzo per tutte le società quotate, almeno a Milano. Il rapporto euro-dollaro a 1,4751, una giornata che ha dal punto di vista macroeconomico gli occhi puntati sulla riunione della Banca Centrale Americana. Stasera alle 20:15 conosceremo la decisione sui tassi, ma non dovrebbero subire variazioni. La politica monetaria dovrebbe rimanere su questi livelli ancora piuttosto a lungo, almeno secondo le indicazioni formulate più volte dal numero uno della Federal Reserve, Ben Bernanke. Oggi numerose trimestrali in arrivo: Time Warner, Cisco, Qualcomm e anche altri dati macroeconomici, come le richieste di sussidi alla disoccupazione e il rapporto ADP sull'occupazione. Anche questo è un indicatore piuttosto importante. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi. Sono sicura che vi piacerà moltissimo affrontarlo con noi. Parliamo del risparmio dei più piccoli. Investire per conto dei propri figli è meno faticoso di quanto si possa pensare comunemente, e soprattutto ha un grande vantaggio, che è il tempo. Infatti, programmare un investimento per una durata di 10 o 20 anni consente di ottenere rendimenti elevati. Il ventaglio di offerte da parte delle banche è sempre più ampio, con prodotti e soluzioni costruiti ad hoc per i più piccoli. 44 gatti, Io Cucciolo, I Primi Passi sono soltanto alcuni dei nomi dei baby conti presenti sul mercato. Uno dei consigli più comuni che si possono dare a dei genitori intenzionati a creare una sorta di piccolo portafogli per i figli è quello di cercare di mettere da parte qualcosa dallo stipendio, aprendo ad esempio un classico libretto di risparmio. Il libretto, a differenza di un conto corrente, ha bassi costi di gestione, dà la possibilità di fare versamenti e prelievi presso la filiale e non ha nessun vincolo di età. Le banche, quando si apre un libretto di risparmio, possono richiedere un versamento minimo, mentre per quelli successivi non esiste di regola un limite. Un'altra strategia previdenziale su cui due genitori potrebbero investire a beneficio dei figli è la polizza vita. Questi strumenti consentono di costruire un piccolo capitale, anno dopo anno, con sistemi di protezione che garantiscono comunque il raggiungimento dell'obiettivo. Come era naturale aspettarsi, stanno già cominciando a scriverci nonni e zii, che sono sicuramente le figure familiari generalmente più orientate a programmare un piano di risparmio per i nipoti. E anche di questo parleremo, cogliendo sicuramente le vostre osservazioni. La prima domanda però è quella che prendo, generalmente non parto subito con le domande degli ascoltatori, però colgo subito la palla al balzo con il suggerimento che ci dà Matteo da Pescara, che dice: ma perché non c'è nessun rappresentante delle banche online? I migliori depositi per la liquidità per i bambini sono quelli proprio su internet, tipo il conto arancio. Allora Matteo, non abbiamo una banca esclusivamente diretta questa mattina, ma ormai tutte le banche hanno anche tutto il comparto online assolutamente predisposto anche per soddisfare le esigenze dei familiari, delle famiglie che vogliono cominciare ad accantonare qualcosa per i più piccoli. Allora, proprio sull'onda di questo suggerimento, comincio la mia chiacchierata con Gianluigi Polini, direttore commerciale della Cassa di risparmio di Ferrara, perché proprio a microfoni spenti, diciamo, prima dell'inizio della trasmissione, anche di questo avevamo parlato, giusto dottor Polini, si ricorda, sì, stamattina? Buongiorno. Sì, perché c'è il conto corrente normale, il prodotto di risparmio più diffuso per i piccoli è il libretto di risparmio, però ha ragione il nostro ascoltatore, anche lo strumento online sicuramente adesso è una strada molto battuta dalle famiglie che vogliono cominciare a pianificare risparmio per i figli o per i nipoti. Sì, senz'altro, lo strumento online è uno strumento su cui penso ogni banca, e così anche la mia banca, la Cassa di risparmio di Ferrara, sta cercando di puntare soprattutto poi non soltanto per i piccoli ma anche per i giovani che comunque si aprono al mondo dello studio, al primo mondo del lavoro, e quindi il conto, le operazioni online sono senz'altro le operazioni privilegiate, peraltro consentono di accedere a tutta una serie di servizi che sono per noi totalmente gratuite, e questo è in una politica di avvicinamento sempre di più della banca verso i settori giovanili. Per noi importante è che il rapporto sia il più conveniente possibile, il più economico possibile. Tante volte, ripeto, è a costo zero, è importante attraverso questo, il conto corrente, che è una strada, è un fluido, no, per incontrarsi, poi inserire anche altre opportunità, altri servizi che possono essere utili durante la vita degli studi o la vita lavorativa. Io direi che prima ancora comunque di partire dal prodotto, la Cassa di risparmio di Ferrara, un po' come sua mission, lo ha proprio nella propria denominazione, si interessa al mondo del risparmio e al risparmio in particolare dei giovani da sempre. Noi siamo sul mercato da 171 anni, la nostra collaborazione col mondo delle scuole, delle università è di lunghissima data, tutti gli anni, ma penso che non saremo senz'altro gli unici. Comunque noi vogliamo fare una presenza nella giornata di ricorrenza della festività del risparmio presso le scuole, incontrare i ragazzi, sviluppare dei temi, dei concetti anche educativi sul risparmio. Non ci presentiamo assolutamente per vendere i nostri prodotti, perché non ci sembra assolutamente di buon gusto per fare questo, ma cerchiamo di spiegare ai bambini delle elementari, perché si parte già in prima elementare, i ragazzini poi più grandi anche nelle altre scuole, il valore e l'importanza. Proprio l'importanza del risparmio, perché insomma si può anche vengono condotti anche dei temi su cui poi loro sviluppano delle idee che verranno anche premiate. Ne parleremo, dottor Polini, nel corso della trasmissione senz'altro, anche perché è chiaro che in occasione di questo tipo, lei citava la giornata mondiale del risparmio, è del tutto inopportuno che una banca si presenti in una scuola portando i propri prodotti, però facendo crescere con una certa consapevolezza gli abitanti del territorio che si serve, è chiaro che poi la banca raggiunge raggiunge anche nel lungo periodo l'obiettivo che vuole, che è quello comunque di gestire anche questa clientela. È una strategia assolutamente legittima e corretta. Gino Conte, andiamo invece al settore assicurativo. Voi siete partiti proprio da poco con un prodotto che si chiama Primo Domani, una soluzione che accompagna praticamente il bambino dalla crescita fino ad una fase piuttosto avanzata della gioventù, fino a 26 anni, qualora il piano di versamenti predisposto dalla famiglia venisse completato fino al termine appunto del vostro programma. E prima di partire magari con le caratteristiche del prodotto, non so se adesso riesco in tempo, non riesco ad avere tutto il tempo necessario appunto per poterne parlare. Quello che mi chiedo però è come mai un gruppo assicurativo come il vostro, che è sicuramente il gruppo più importante del nostro paese, uno dei maggiori player europei, pensa adesso ad un prodotto per i piccoli. Avete colto che sia in qualche maniera aumentata la richiesta di protezione da parte delle famiglie e comunque di pianificazione diciamo del futuro della famiglia, dottor Conte? Sì, innanzitutto buongiorno a lei. Buongiorno ovviamente ai radioascoltatori e agli altri ospiti. In realtà Generali ha sempre parlato alle famiglie, ha sempre parlato ai suoi clienti anche con questi valori che sono quelli della tutela, della protezione. Oggi più che mai ci sentiamo di dover dare delle risposte anche in questo momento rispetto alle aspettative della clientela, e pensiamo alla clientela famiglie, che è importante anche numericamente in Italia, a tutto tondo, per cui come assicuratori non parliamo solamente, anche se uno elemento molto importante, del risparmio, dell'accantonamento, ma anche della protezione dei genitori e della protezione dei bimbi, per cui veramente un'offerta, direi, come si suol dire, a 360 gradi, ma in questo caso è veramente vero nei confronti della famiglia, della giovane famiglia, con i figli che iniziano un percorso di crescita per poi arrivare fino anche a quell'età che cui faceva riferimento lei, con una caratteristica che noi riteniamo molto importante e ci piace anche spenderla proprio parlando tra di noi. Il prodotto Primo Domani è un prodotto che cresce con la famiglia, cresce con i figli, nel senso che si evolvono le coperture, le garanzie, le caratteristiche del prodotto in funzione dell'età dei bimbi. E infatti poi avremo modo di parlarne, per esempio una polizza che non solo prevede un accantonamento per il futuro, per lo studio, ma qualora si verificassero delle disavventure nel corso della vita, si prende il motorino, si cade, c'è la copertura anche per affrontare questa eventualità. Rivolgo solo un saluto, perché adesso non riesco a cominciare la mia chiacchierata con lui, anche a Cristiano Bottone, responsabile marketing del Consorzio Banche Popolari. Buongiorno a tutti voi. Le faccio raccontare dopo, nella seconda parte di Salvadanaio, che cos'è invece 44 Gatti, che è il motivo per il quale mi è interessato un po' esplorare anche la vostra attività. Mi sembrava un prodotto recentissimo, scopro invece che ha 15 anni, per cui in realtà è chiaro che il sistema bancario si interroga da anni su come poter servire al meglio la platea dei più giovani e delle proprie famiglie. Sentiremo come è cresciuto anche questo prodotto, cos'è stato necessario fare per venire incontro alle esigenze delle famiglie, che negli ultimi anni sono cambiate tantissimo. Pronto Sergio da Cremona, se non ho capito male un nonno di tre nipoti che ha già studiato la sua strategia per poter consentire loro di studiare e di avere quindi anche una giovinezza serena. Io ho 40 anni, un nipote di 2 anni che è la ragione della mia vita, e sicuramente io posso usare il canale online perché ho una certa dimestichezza. Mia mamma, che è una persona più anziana, per suo nipote difficilmente si metterebbe lì a pianificare risparmio per suo nipote con questo strumento, per cui abbiamo ancora il canale tradizionale dal quale molta fetta della popolazione italiana non riesce a fare a meno, per cui anche quella deve essere servita. Poi lei, se è consapevole dei limiti del canale tradizionale e non la soddisfano, sicuramente ha tutto il diritto, visto che questa opportunità ce l'ha, di andare su online, quindi volevo insomma precisare solo questo aspetto. Cristiano Bottone, marketing Consorzio Banche Popolare. Insomma, ieri un po' con i miei collaboratori esplorando il panorama dei conti correnti dedicati ai più piccoli, c'è il Primi Passi di Deutsche Bank, il Genius Kids di Unicredit, il Conto Cucciolo di Banca di Romagna, il conto 05 di Intesa San Paolo, e potevamo farci mancare il conto 44 Gatti. Peraltro, aprendo il sito internet del Consorzio Banche Popolari, vedo che lo mettete proprio in prima linea, un prodotto su cui puntate molto, dottor Bottone. Sì, 44 Gatti è un prodotto che viene considerato un po' strategico, è un progetto che è nato nel 95, quindi ha avuto una lunga storia che è stata anche piuttosto divertente, dobbiamo dire, e continua a darci delle grandi soddisfazioni, anche perché qui si è messo un po' al centro del discorso la capacità di costruire un rapporto relazionale con il bambino e la famiglia. Quindi, più che concentrarci sulla specificità del prodotto tecnico da offrire al bambino, si è lavorato molto su questo contenitore fantastico che si è andato a costruire nel tempo, assieme all'Antoniano di Bologna e assieme a tutte le collaborazioni che abbiamo sviluppato. Quindi questa è stata un po' la chiave di volta che ha costruito il successo di questo progetto nel tempo. Le relazioni che si sviluppano attraverso il rapporto 44 gatti sono molto nitide, molto pulite e percepite in modo molto tranquillo dalla famiglia, che ha, diciamo, prova piacere nel portare avanti questo tipo di rapporto, e allo stesso tempo il prodotto è costruito a misura di bambino, quindi il bambino ha dei contenuti diretti proprio a lui, pensati per lui, che si evolvono nel corso del tempo in una continua diciamo fioritura di novità e di cambiamenti a seconda di quello che sta succedendo nel mondo esterno. Certo, contenuti che magari lo possono relativamente interessare a 4 anni, ma magari a 8, 10, un po' di più. È stato necessario ovviamente in questo target che va da 0 a 12 anni dovremo andare a individuare tante fasce d'età con tantissime esigenze. Diciamo che ci si è concentrati per ovvie ragioni maggiormente nella fascia che potremmo individuare con quella della scuola elementare. Benissimo, dove sarebbe necessario cominciare a fare proprio educazione sull'utilizzo del denaro. Io peraltro agli ascoltatori che magari, a parte il fatto di orientarsi nell'offerta che è molto ampia, quindi non è esattamente un percorso facile, per chi però vorrebbe proprio, come dire, studiare quali sono le modalità più corrette per insegnare l'uso del denaro ai propri figli, io vi suggerisco un libro di due bravissimi colleghi, Maria Teresa Cometto e Glauco Maggi. Maria Teresa Cometto vivono a New York da tanti anni, sono collaboratori appunto del Corriere della Sera e della Stampa. Hanno scritto Figli e soldi, dai telefonini alle carte prepagate, come aiutarli a spendere bene. C'è davvero tutto il vademecum sull'insegnamento dell'utilizzo dei soldi a ragazzi. Loro hanno un'esperienza con una figlia, la raccontano, ma soprattutto si sono anche guardati intorno e hanno visto come il sistema bancario vende questi prodotti alle famiglie e quindi a che cosa bisogna anche stare attenti quando si fanno certe scelte, perché si fanno molto spesso anche in coincidenza di momenti emotivamente molto delicati, l'arrivo di un figlio, di un nipote, e a volte anche questo magari ci può indurre a non fare la scelta corretta dello strumento di investimento adeguato. Sergio da Cremona, la sto facendo aspettare da tanto, è un nonno se non sbaglio, vero? Buongiorno. Sergio? Sergio, non mi sente? E pronto? Sì, Sergio, può abbassare la radio perché la sentiamo? Sì, subito, l'avevo. No, la mia domanda è questa: io ho 3 nipoti e quindi per essi faccio mensilmente un versamento su un pack che li porta fino a 18 anni. Ecco, volevo sentire dai vostri tecnici se, stante anche gli alti e bassi del bilanciato a cui io mi sono agganciato, vabbè, non posso dire magari la sì, anche perché comunque abbiamo capito, uno strumento di investimento, un piano di accumulo e sarà un fondo insomma bilanciato. Adesso... Sì, un fondo bilanciato che porta appunto fino a 18 anni. Ecco. Quanti anni hanno adesso i suoi bambini? Adesso uno 13, uno 11 e uno 8. Uno 8. Sergio, non ci siamo con l'età, io mi vorrei far adottare da lei visto che ha tanto cuore per il futuro dei suoi nipotini. Sentiamo che cosa ne pensano i nostri esperti. Sentirei Gino Conte di Assicurazione, perché intanto il concetto del PAC, del piano di accumulo, è centrale anche nel vostro prodotto, no? Assolutamente, mi fa piacere sentire il signor Sergio, è un nonno veramente previdente e anche preparato. E direi che proprio pensando a questo tipo di nonni e di famiglie che ha dato Primo Domani, il cuore di Primo Domani è proprio, ha detto bene il signor Sergio, un PAC, quindi un piano di accumulo per chi è un po' meno ferrato sui temi, quindi la possibilità di versare periodicamente, in modo ricorrente, una somma di denaro. Nel caso del Primo Domani portiamo dei 50 euro mensili, quindi una somma direi alla portata di tutti per salire via via in funzione delle disponibilità. Uno degli elementi che mi piace sottolineare invece della nostra offerta differenzianti, proprio del Primo Domani, è che oltre all'accumulo progressivo c'è anche la possibilità di cosiddetti versamenti spot, quindi aggiungere in occasione del Natale, che si avvicina, del compleanno, della promozione scolastica, non l'ulteriore bambola, l'ulteriore bicicletta, l'ulteriore videogame, ma contribuire proprio a questo piano di accumulo. E l'altro elemento importante, almeno per quanto riguarda riguarda il prodotto generale, è che questi soldi sono sempre disponibili senza costi, quindi tutto quello che viene aggiunto rispetto al piano base è lì pronto per essere eventualmente. Questa è una cosa molto importante, dottor Conte, che ha precisato, perché conosciamo bene la dinamica delle assicurazioni sulla vita, e questo è un prodotto diverso ma che comunque per certi punti si avvicina molto allo strumento vita tradizionale, e sappiamo bene che possono durare un tot di anni, e qualora ci servisse improvvisamente nella vita il denaro e dobbiamo riscattare in anticipo quello che abbiamo versato, scopriamo che la dinamica appunto del prodotto è fatta anche di caricamenti iniziali tali che scoraggiano generalmente il riscatto anticipato, ma se questo fosse assolutamente indispensabile sono oneri molto pesanti, per cui anche la massima trasparenza intorno a questo aspetto mi sembra assolutamente fondamentale. Vorrei sentire Diego da Vicenza e poi ritorno anche a Gianluigi Polini della Cassa di Risparmio di Ferrara. Diego. Sì, buongiorno. Buongiorno a lei. Complimenti per la trasmissione intanto. Grazie. Niente, volevo chiedere, io per il mio bambino utilizzo ancora i buoni postali, volevo capire se era uno strumento ancora valido e se è uno strumento quantomeno anche garantito. Beh, guardi, le Poste Italiane, come lei sa, hanno un cappello protettivo che è molto importante, che è quello dello Stato. Detto questo, l'offerta delle Poste, adesso noi non ci riusciamo, ovviamente non li abbiamo qua e quindi non possiamo farci spiegare anche la loro offerta, che è piuttosto nutrita. Loro peraltro hanno predisposto tutto questo pacchetto che pure accompagna i bambini nella crescita. Io nasco, io cresco, io conosco, se non mi ricordo male come si chiamano questi libretti di risparmio. Chiedo se mi può venire in aiuto al dottor Gianluigi Polini, non tanto un commento sul prodotto postale, perché mi sembrerebbe del tutto inappropriato, ma in ogni caso, come dire, anche la presenza molto capillare sul territorio della Posta non è che ha infastidito poco il settore bancario, e ovviamente anche le Poste poi negli anni hanno giocato sul fattore giovanile, i nostri clienti più giovani. Mi aiuta ad orientare l'ascoltatore, sì. Sì, indubbiamente la capillarità distributiva degli uffici postali è un elemento di concorrenza molto forte, anche il fatto che gli uffici postali siano aperti al sabato, questo è un altro elemento di elasticità senz'altro a loro favore, però direi che le banche, ad esempio la nostra banca, si è adeguata quantomeno per proporre dei prodotti che in termini di rendimento e di costi siano concorrenziali, io oserei dire migliori anche dei prodotti postali. Adesso non voglio entrare in discussioni poco simpatiche con la concorrenza, però ad esempio il nostro prodotto che dedichiamo al bambino da 0 anni fino al bambino, chiamiamolo pure così, fino a 18 anni, è un prodotto che non ha assolutamente costi, che non paga assolutamente bolli, ha un ottimo tasso, attualmente è il 2%. Avrà al compimento dei 14 anni anche la possibilità di utilizzare la carta prepagata e quindi di gestire con maggiore consapevolezza il reddito che avrà guadagnato, che avrà ottenuto dai genitori, dei nonni, in modo da educarsi a diventare adulto per una gestione più oculata del risparmio. E quindi quando noi abbiamo elaborato questo prodotto, abbiamo preso anche come base di riferimento di competitor anche l'ufficio postale. Certo. Siamo sicuri di poter offrire un ma il tradizionale libretto di risparmio viene ancora chiesto per i piccoli? Viene molto chiesto, io ero un po' scettico, questo nuovo prodotto che l'abbiamo rivisto, l'abbiamo pubblicizzato ampiamente nei territori in cui siamo presenti, pensavo che fosse un qualche cosa, uno strumento ormai superato. Io lo ricordo quando ero bambino, ero elementare, mi veniva da c'erano versate 500 lire e poi poco alla volta lo si incrementava con le paghette che si ricevono. Invece abbiamo visto un notevole successo durante l'estate, anche durante il mese di agosto, un mese generalmente calmo quando la gente pensa a tutt'altre cose, abbiamo visto che molti di questi libretti sono stati aperti. Però per venire incontro poi alle esigenze delle famiglie, non soltanto dei genitori ma anche dei nonni, che forse sono più attenti, più preoccupati su questi aspetti che riguardano i nipoti, noi da poco tempo, da poche settimane abbiamo catalogo anche una polizza assicurativa vita, la chiamiamo PAC Junior, noi la diffondiamo per conto di Cattolica Assicurazione, con cui abbiamo un rapporto di collaborazione, sta dando qualche primo risultato, abbiamo bisogno di far capire il prodotto che indubbiamente è interessante, perché ragiona su una logica di lungo periodo, quindi si possono mediare anche i rendimenti. Eccoci di nuovo a Salvadanai. Volevo anche dare lettura di qualche messaggio al 349-238-6666, mentre continuano ancora ad arrivare chiamate, richieste di intervento all'800-24-0024. Un ascoltatore ci scrive: per mia figlia avevo fatto una polizza vita, risultato che a 18 anni abbiamo ricevuto meno soldi di quelli che abbiamo versato. Per quanto riguarda il libretto di risparmio, interessi non riescono a coprire le spese. E allora Cristiano Bottone delle Banche Popolari, peraltro noi abbiamo parlato del vostro prodotto di punta per i piccoli che è 44 gatti, ma consorziate tantissime popolari, molte avranno anche il canale, come dire, della banca insurance e quindi distribuiranno anche prodotti assicurativi. Lei cosa si sente di suggerire a chi cerca di capire qual è la migliore alternativa tra un libretto di risparmio piuttosto che una polizza assicurativa? Ovviamente sono prodotti di natura completamente diversa, per questo secondo lei sono complementari, antagonisti? Come si fa a scegliere quello che va meglio per la propria esigenza familiare? Sicuramente non è semplice, e in questo caso il nostro è un consorzio, e quindi all'interno delle banche consorziate abbiamo una panoramica molto molto ampia di possibilità differenti per questo tipo di impieghi. Tra l'altro dal nostro osservatorio possiamo ancora vedere un'Italia che è anche a predisposizioni diverse a seconda delle zone territoriali, quindi ci sono aree in cui si tende ancora a richiedere il libretto di risparmio, forse per tradizione, forse per fiducia nell'istituto. Le popolari hanno, perché quello è lo strumento più vicino al contante, al quale noi siamo ancora tanto affezionati. Sì, probabilmente il problema di base è un problema culturale, si è abituati a quel tipo di formula e si tende a rimanere vicini a quella, anche perché spesso viene offerta a condizioni che comunque riescono a soddisfare le esigenze della clientela. Si parlava prima degli uffici postali, tutto sommato c'è stato un aumento di concorrenza che credo che abbia potuto far bene alla clientela, se la guardiamo dal punto di vista generale. Tutti si sono un po' dovuti guardare intorno e cercare di adeguare le proprie offerte a quello che era il mutamento del mercato. Però certo la scelta non è semplice, e probabilmente l'unico consiglio valido è quello di valutare con calma, certo, e attenzione le singole proposte per capire quali sono quelle che corrispondono realmente alle necessità. Anche le necessità della famiglia spesso sono piuttosto diverse da famiglia a famiglia. Anche perché molto spesso può capitare che cominciamo ad accantonare qualcosa per il futuro del bambino e poi improvvisamente capita qualcosa alla famiglia tale per cui bisogna intaccare anche quel risparmio, che è molto spiacevole, però qualche volta può capitare, per cui magari prendiamo in considerazione anche questa eventualità. E proprio per questo scegliamo magari il prodotto che ci consente di come dire, riscattare le cifre necessarie in maniera meno onerosa possibile. Volevo sentire Massimo dalla provincia di Roma e poi, anzi Massimo, le chiedo solo 3 secondi di pazienza perché c'è Elena da Pisa che ci fa una domanda perché fa qualche difficoltà ad aprire dei libretti per la figlia. Elena, perché? Sì, perché sono, essendo separata, sì, sia le poste che la banca mi chiedono la firma congiunta con il mio ex marito, e avendo problemi con il mio ex marito, fra l'altro anche economici, non ho potuto aprire alcun tipo di libretto o altre cose di risparmio per mia figlia, esatto. Volevo sapere, ecco, se questa se corrisponde alla verità. È stata superata oppure se è sempre così? Elena, se faccio magari un giro un po' più ampio di banche, però mi chiedo, per esempio, dottor Polini, chiedo un attimo un supporto a lei, un libretto al portatore che è intestato al soggetto che lo apre, deve necessariamente avere la... Beh, necessariamente oggi il fatto che il libretto sia un libretto al portatore richiede comunque la riconoscibilità di chi esegue l'operazione. Quindi noi richiediamo, noi intestiamo senz'altro il libretto al minore, ma richiediamo quantomeno la sottoscrizione di uno dei due genitori. Quindi dei due genitori. Quindi diciamo che Elena ha fatto pochi... la patria potestà. Benissimo. Questo è sempre fondamentale. Non può essere aperto infatti dal minore stesso, no, e neppure dal nonno, pensi, neppure il nonno può farlo, però mi chiedevo, se non ha la patria potestà. Però Elena diceva che in sostanza le muovono l'obiezione che per poter aprire un libretto per la figlia deve essere deve essere firmato anche dal secondo genitore. Ci può essere anche una persona che non ha secondo genitore, ci possono essere tanti problemi. Mi sembra un limite, è una circostanza, diciamo, non tanto fortunata nella quale Elena è incappata. Elena, magari poi la richiamiamo e ci racconti un po' quale banche le hanno dato questa motivazione. L'ultima, Massimo dalla provincia di Roma, buongiorno, rapidissimo. Eccolo, rapidissimo. buongiorno, signora Debra, complimenti per la missione, la seguo tutti i giorni. Grazie. Niente, volevo soltanto fare una piccola precisazione per quanto riguarda il generale. Io ho una figlia di 25 anni e circa, diciamo, 18 anni fa già ho fatto questo prodotto. Sì. Perciò lei ha detto, diciamo, che è un nuovo prodotto, invece io già l'ho sottoscritto, mi sono trovato benissimo. Meno male. Perché, no, benissimo, perché ho sempre creduto nel discorso assicurativo, ho avuto anche dei GESA e via dicendo. In pratica l'avevamo fatto al nostro assicuratore, di concerto al nostro assicuratore, che la scadenza, diciamo, del 18° anno potesse darci una mano per quanto riguarda l'università. Infatti io, pagando inizialmente in lire circa 200.000 lire e dopo circa 100 euro, ho pagato interamente tutta l'università, compresi gli studi. Massimo, per una volta tanto con la polizza è funzionata bene, mi sembra un miracolo. Comunque io la ringrazio per averci dato anche questa testimonianza positiva, perché è sempre molto facile sparare addosso a tutti, no? E fare i qualunquisti, invece per una volta tanto è una cosa che è funzionata bene. Gino Conte, mi ha mai detto una bugia che prima o domani parte adesso? No, non gli ho detto una bugia, assolutamente. Mi fa piacere sentire la soddisfazione del nostro signor Massimo. E sono sicuro che comunque sia una situazione comune a grossa parte dei nostri clienti. Ma allora il fatto di questo domani... lancio importante che avete fatto a metà ottobre significa che avete modificato le condizioni del prodotto? Ho 20 secondi di tempo, purtroppo. Allora, primo domani è un nome storico e di successo in generale. Abbiamo voluto mantenere i punti di forza, tra cui il nome e quindi altri elementi positivi, e aggiornarlo e arricchirlo con quelli che sono stati ulteriori caratteristiche e coperture, diciamo più moderne. Benissimo. Sia dal punto di vista finanziario che anche dal punto di vista assicurativo. Per cui il nome è quello, il prodotto è evoluto. Se io volessi partire con questa polizza per mio nipote, quanto devo spendere come primi versamenti? Da 50 euro in su è quello che vuole. Benissimo, quindi invece di comprargli la bicicletta a Natale magari posso fare questa prova. Io ringrazio molto Gino Conte del Generale Assicurazioni, Gianluigi Grazie Polini, Cassa di Risparmio di Ferrara, Cristiano Bottone, Consorzio Banche Popolari. È stata una bella trasmissione, ci ritorneremo magari indagando tutto il resto dell'offerta che c'è nel mondo bancario dedicata ai piccoli. Salvadanaio torna domani e dopodomani ci sarà con voi Valeria De Rosa. A voi tutti, ci risentiamo lunedì.